Crediamo fermamente che la questione appunto della crisi del coronavirus è legata fortemente a quella che è una crisi non soltanto psicologica ma veramente materiale della maggioranza della popolazione del nostro paese, in realtà anche in Europa, sebbene in Europa la situazione e anche diciamo le misure prese fino a questo momento sono diverse. Perché? Perché effettivamente è una crisi di produzione, è una crisi in cui le misure precauzionali restrittive creano un crollo della produzione da un lato, ma soprattutto un crollo delle ore lavorate sia per i dipendenti ma allo stesso tempo forse anche di più per tutti quelli che invece non sono protetti in qualche modo da un contratto di lavoro, si pensa alle partite IVA, ai collaboratori, ai cottimisti in tutti i settori dove i progetti sostanzialmente sono stati se non cancellati comunque arrestati. Allo stesso tempo però c'è un problema che le misure diciamo restrittive che lo sono state se vogliamo sulla libera circolazione delle persone, allo stesso tempo non lo sono state per la libera circolazione dei lavoratori che invece appunto per le esigenze comprovate, esigenze lavorative sono chiamati comunque a lavorare e a barattare se vogliamo i congedi e quindi in realtà il diritto a rimanere a casa proprio per contenere la diffusione del virus, a rinunciare a quelli che sono i propri diritti per esempio in termini di ferie, in termini di congedi retribuiti e quant'altro. Crediamo che sia il caso di non mettere da parte queste questioni perché è un paese già provato che c'è da 10 anni e più di crisi che si continua quotidianamente ad abbattere su questa fetta se vogliamo della società. Nel concreto dunque quali sono questi punti che sottolineate? Innanzitutto, se vogliamo rispettare quello che è il diritto al lavoro, bisogna bloccare la possibilità di licenziare. Quindi questo è il primo punto che abbiamo messo, perché se non prevediamo diciamo il blocco dei licenziamenti non possiamo neanche prevedere le integrazioni salariali, perché a quel punto non ci sarebbe nessuna collocazione in una fase in cui appunto non c'è un reddito di quarantena, che invece, come diciamo negli altri punti, va esteso per avere una continuità di reddito a tutti coloro che diciamo stanno fuori dai regimi contrattuali e soprattutto al lavoro subordinato. L'altra cosa è appunto retribuire i congedi non al 30% ma estendere a copertura retributiva e quindi anche contributiva al 100%. E questo lo facciamo indipendentemente dal contratto, indipendentemente dal genere, perché poi su questa cosa poco ci si è soffermati a pensare che le donne con i figli a casa devono prendere dei congedi, ma quindi abbattono anche il proprio stipendio. E vietare in qualche modo lo scambio quindi anche tra i congedi e permessi retribuiti con invece il gioco delle ferie. Le ferie sono un diritto costituzionale di ogni lavoratore e non possono essere appunto barattate col diritto alla salute o con un'esigenza diciamo di calo produttivo. Allo stesso tempo però bisogna in qualche modo bloccare la possibilità di circolazione del virus attraverso il blocco, se non totale almeno in parte, di tutte quelle che sono le produzioni non di prima per beni di non prima necessità, e quindi lavorare anche, questo lo diciamo nell'ultimo punto, sulle aperture e anche sui turni di lavoro, quindi ridurre le ore per turni di lavoro da 8 a 6 e sicuramente evitare l'apertura H24 per esempio della grande distribuzione. Chiedete anche il potenziamento delle misure di sicurezza per chi appunto è costretto a lavorare e gli ammortizzatori sociali. Esatto. Sì, sono gli altri diciamo gli aspetti complementari, chi è costretto a lavorare sia che si tratti appunto di produzioni di beni di prima necessità ma sia che si tratti di servizi essenziali che sono la sanità, che sono altri servizi di cura fuori dal servizio sanitario nazionale oggi, hanno davvero e poi anche diciamo le produzioni in generale, cioè gli operai che devono andare a lavorare devono davvero poter lavorare nella massima sicurezza, questo è diciamo indispensabile. E dall'altro lato appunto anche si parla di 25 miliardi, bisogna davvero attivare tutti i tipi di ammortizzatori sociali, sia cassa integrazione ordinaria e straordinaria in deroga, ma anche per esempio prevedere contratti di solidarietà con integrazione però salariale, e quindi appunto lo schema di ridurre le ore di lavoro ma non disperdere se vogliamo il numero di lavoratori con un'integrazione salariale forte.